Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it, all'interno del quale troverete anche non soltanto la possibilità di scaricare tutte le puntate in tempo pressoché reale, ma anche la possibilità di interloquire con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete, lo trovate sotto il profilo in Radio 24, il mio blog è Guardi o Ladri, oppure lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore o con qualunque motore di ricerca. Seconda informazione riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, come sapete e come amo ripetere spesso, non amo i casi personali perché non riguardano una platea di persone, li prendo in considerazione solo quando personali si sono, ma appunto soddisfano questa caratteristica. È il caso di una mail che ci è stata spedita dalla provincia di Gorizia da Andrea Verzegnassi. Allora, questo radioascoltatore sta veramente in presente un caso molto molto importante e molto interessante. Voi sapete delle polemiche che si percorrono e si rincorrono routinariamente, d'abitudine, sugli alti costi che hanno i presidi medici o paramedici, farmaceutici o parafarmaceutici nel nostro paese. Talvolta basta varcare la frontiera e quel prodotto è decisamente più basso come costo, ha un costo decisamente inferiore e spesso non c'è una spiegazione apparente. Ricorderete alcuni anni fa la polemica anche sul latte che coinvolse molte case produttrici. Allora, noi per parlare di un caso di questo genere abbiamo con noi appunto Andrea Verzegnassi, che è il radioascoltatore della provincia di Gorizia. Buongiorno. Buongiorno. E abbiamo collegato anche l'ingegner Marco Pollini, che è product manager e specialista di questo prodotto, il prodotto di cui parleremo, per l'impresa che viene chiamata in causa dal nostro radioascoltatore, cioè l'Air Liquide Medical System Spa. Buongiorno ingegner Pollini. E buongiorno a tutti. Allora, dottor Verzegnassi, racconti lei la sua disavventura e comunque la realtà che lei ha scoperto nel momento in cui è andato a cercare un prodotto per suo figlio, un bambino di 4 anni. Esattamente, a causa di un attacco d'asma di mio figlio mi sono recato in farmacia per prendere un articolo che serve a usare gli inalatori, gli spray. Questo articolo è praticamente, per dimensioni, rassomiglia diciamo a un biberon come dimensioni. Da un lato c'è un foro dove viene inserito questo spray e dall'altro c'è questa mascherina per l'inalazione che certo viene fatta al bambino. Il prezzo era di 30,50 euro. 33,50 euro, esatto. Sì. E il farmacista mi ha detto che è caro e comunque è l'articolo più economico di questa tipologia di articoli. Io abito a Gorizia. Gorizia è attaccata alla frontiera perché per recarmi in Slovenia faccio 1 chilometro. Sì. L'articolo, logicamente non della stessa marca ma è simile, costava la metà. Ok, e lei perché si rifà a Marcos Mefar? Perché lei aveva acquistato un prodotto Marcos Mefar. Esatto, di quella marca lì. In Slovenia non vendevano quel prodotto, lì vedevano un prodotto simile, però certamente le stesse funzioni. Certamente. Allora, quindi questa è già una cosa che abbiamo chiarito, vale a dire il prodotto era simile. Allora, noi abbiamo l'ingegner Pollini. Sì, pronto. Buongiorno. Allora, dicevamo, il prodotto acquistato dal nostro radioascoltatore è un prodotto Marcos Mefar, fa capo all'Air Liquide Medical Systems questa società, questa impresa? Air Liquide Medical Systems è il nome che ha attualmente Marcos Mefar da gennaio del 2009. Benissimo. Si tratta della stessa azienda. Benissimo, quindi parliamo di un prodotto che fa capo, diciamo così, a questa impresa di cui lei è responsabile come manager di produzione. Allora, noi abbiamo sentito intanto una cosa molto importante, vale a dire, il nostro radioascoltatore ha detto questo prodotto, l'Airspace, questo distanziatore, questo inalatore della Marcos Mefar mi viene a costare in Italia 33,50 euro. Se vado oltre la frontiera, vado in Slovenia, un prodotto molto simile, ovviamente non della Marcos Mefar, questo voglio assolutamente sottolinearlo, mi viene a costare meno della metà. Allora la domanda è: come mai differenze così alte nel costo di prodotti simili? Sicuramente lei mi dirà, non ho motivo per dubitarne, che la qualità è diversa, ma è possibile che questo attrezzo della distanza, della lunghezza di un biberon, possa costare 33,50 euro? Ovviamente io non ho risposte, la lascio a lei. Senz'altro, in effetti guardi, le faccio subito la premessa che per trovare dispositivi che sono appunto distanziatori cosiddetti per la somministrazione di farmaci erogati dalle bombolette spray a costi differenti, effettivamente si può stare in Italia, nel senso che i costi di prodotti analoghi variano generalmente in un ordine di grandezza che parte dai 20 fino ad arrivare anche a 50 euro, sulla base di tutta una serie di fattori. La cosa che probabilmente dà origine all'equivoco è una mancata percezione quello che può essere il distanziatore, di quali sono le sue funzioni e di quali sono naturalmente poi tutte le... Beh no, penso che su questo equivoci non ce ne possono essere, perché nel momento in cui uno ha un bambino asmatico e acquista quel prodotto sa perfettamente a cosa serve, non è che compra una macchina per andare in gita, compra un distanziatore, un inalatore, qualcosa che possa servire per alleviare il disturbo di un bambino asmatico. Il punto non è questo, il punto mi pare di capire è se quel prezzo è giustificato a fronte di un prezzo decisamente più basso, ripetiamo, di altre marche che si trova all'estero, che si trovano all'estero. Quindi lei ci dice, ingegner Pollini, che quel prezzo è giustificato probabilmente, me lo dica lei, dalla ricerca, dall'innovazione, da tutto quello che c'è dietro un'impresa come la vostra. Guardi, in realtà l'argomento è un filino più complesso. Se mi chiede di riassumere in poche parole, io posso dirle che sul mercato sono disponibili diversi modelli di distanziatori. Lo scopo del distanziatore è quello di far sì che la medicina, che è erogata nel caso di specie sotto forma di aerosol da bombolette predosate, arrivi nella maniera corretta, nella dose corretta, dove deve andare, cioè nei polmoni. Sì, no, ma questo l'ho capito, cioè, voglio dire, è la stessa funzione. È la stessa funzione che fanno tutti gli altri distanziatori. Lei stesso dice che ce ne sono tanti sul mercato, probabilmente tutti, anzi verosimilmente tutti, svolgono la stessa funzione, no? In maniera diversa, appunto. Ecco, bene, quindi il prezzo è giustificato, diciamo così, dalle caratteristiche tecniche che ha un prodotto come il vostro. Assolutamente. Bene, ecco, questa è la risposta che io volevo sentirmi dire, perché ovviamente dall'altra parte del telefono c'è un radioascoltatore, ma tanti radioascoltatori che vogliono capire, sempre più essere, come dire, informati sull'acquisto che fanno, quindi un acquisto che deve essere consapevole e informato in ogni sua parte. Allora, dottor Verzegnassi, lei ha ascoltato il motivo per il quale la Marcos Mefar dice questo prodotto costa X, perché dietro c'è, oltre a quello che è verosimile pensare, ricerca, innovazione, eccetera, eccetera, c'è anche una caratteristica che rende quel prodotto unico. Ecco, a lei la parola, Verzegnassi. Sì, potrebbe anche essere, comunque un articolo è fatto in plastica, una mascherina di gomma e un adattatore per inserire lo spray. Non vedo questa ricerca. Quindi lei non vede nemmeno la giustificazione di questo prezzo, insomma. No, è fatto più o meno del materiale di un biberon, di plastico simile, una mascherina e un foro adattatore. Sì. Ecco. Allora, insomma, ingegner Pollini, il nostro radioascoltatore, probabilmente saranno altri nella sua stessa situazione, dicono ma tutto sommato non capiamo perché quel prodotto di quel determinato materiale è poi così piccolo, tutto sommato abbia quel costo. Lei rimane ovviamente convinto che... Di questo in realtà è il punto di vista che io capisco perfettamente, certo. Ed è il punto di vista del paziente. In realtà poi quando noi andiamo ad avere a che fare con una terapia, con la salute, interviene il medico che definisce tutti gli aspetti della terapia, e questo riguarda sicuramente il farmaco, e probabilmente questa è la parte che il paziente tende a giustificare maggiormente, perché appunto il farmaco è il farmaco. Nel caso però della terapia aerosolica, in particolare fatta con dei cortisoni. Il device ha delle ha un'importanza decisamente notevole. Il device, parliamo in italiano però, perché se il dispositivo medico, okay, che è fondamentalmente il veicolo mediante il quale effettivamente si può garantire che il farmaco riesca a fare quello per cui... Va bene, allora comunque insomma noi abbiamo capito che le posizioni rimangono quelle dell'impresa, che giustamente dice dal suo punto di vista questo è il costo, perché ovviamente dietro c'è tutto quello che è un processo produttivo di analisi, di ricerca, di studio, e dall'altra parte invece abbiamo sentito un radioascoltatore che credo che saranno molti a pensarli così, dice d'accordo, va bene, mi va bene tutto, però se io valico la frontiera un prodotto simile che probabilmente allevia le sofferenze di mio figlio come altri lo pago meno della metà. Un'antica questione, ma ci è sembrato giusto portarla alla luce con questa lettera di questo radioascoltatore, che ringrazio, così come ringrazio l'ingegner Pollini, in regia Paolo Corleoni, in studio Margherita Ina, e Roberto Galullo vi auguro una buona giornata.